radio, 1, 2, 3, prova. A, prova, prova radio, 1, 2, 3, prova radio, prova. A, 1, 2, 3, prova, prova radio. A, prova, prova radio, 1, 2, 3, prova radio. A, prova. A, prova, prova radio, 1, 2, 3, prova. Prova radio, 1, 2, 3, prova radio. Prova radio, prova. Prova radio, 1, 2, 3, prova. Prova radio, 1, 2, 3, prova radio. Prova radio, 1, 2, 3. Prova, prova radio, prova. Prova radio, 1, 2, 3, prova. Prova radio, 1, 2, 3, prova. Prova radio, prova, 1, 2, 3. Prova radio, ha, ha. Si sa mai che spolverando facendo l'aumenti, poi accendo la radio, grazie, mi si accende a tutto, perché arriva fino a 15 e mezzo, quasi 16, e quindi l'ho regolato da dentro a 13,8. Sì, io ho un proxy da 60 ampere, ho ribagato 140 euro, però è un alimentatore eccezionale. Ce ne ho due alimentatori, uno da 60 e uno da 40, tutti e due la proxy, e ho diviso un po' le radie, a parte quelle a 220. No, io sono là, sono da 40. No, questi sono belli perché non hanno attacco davanti, ce l'hanno dietro, davanti c'hanno gli strumenti illuminati e l'attacco dell'accendisigari, però io non ce li ho davanti e sono dietro, c'è un basamento dietro, era stato fatto proprio per appoggiare gli alimentatori. Alimentatori davanti io non ne ho, capito? Sollevo il salvavita, loro si accendono automaticamente. E quello bisogna cambiarle col potenziometro. Ma non ne fai uno che ti rugiambra. Già che me lo dai, lo do al Gavino, al cognato Massimiliano, me lo faccio cambiare col potenziometro. Lo faccio mettere nuovo. Perché quello lì è un potenziometro di tensione, evidentemente non tiene più. Capito? Ed è anche pericoloso perché ti può salire il volt anziché a 13, a 14, to al massimo 13,8, andare a 20 di bruciare ora chi? Bisogna sostituirlo con una fesseria. È una fesseria, bisogna sostituirlo. Bisogna disaldarlo e metterlo nuovo, capito? Ci sono qui potenziometri così da fusare, vulcani 50 centesimi. Io senza andare alla GBC forse dall'inizio dell'anno, ero andato mi pare a gennaio a comprare degli adattatori, un adattatore per il portatile, che qui non ce l'aveva neanche, ma l'aveva dato Gianfranco ed era aperto, e se chiude è meglio, perché intanto sta facendo, è come quel negozio, è una cosa pazzesca, è un mondettaio, perché tu quando entri ci sono le ragnatele dappertutto. Mondettaio, non ha mai lavato per terra, non ha mai passato la scopa, non ha mai pulito, se vedi i vetri non vogliono visti, ma dentro non vuoi visto, mentre è un mondettaio, proprio veramente un mondettaio, mi dispiace dirlo perché Tonino lo conosco una vita, però è un mondettaio, non c'è ordine, non c'è niente, ci sono le ragnatele, nelle vetrine ci sono le ragnatele. Non c'è più niente, non c'è più niente, ma Fusaro ha una storia, un capitale dietro le spalle, capito? Quindi insomma, tireranno avanti per quanto è, però lui non c'è più niente, oramai la componentistica la ordinano tutti su internet perché costa meno, qualsiasi ricambio lo ordini su internet, capito? Non penso che per quello che chiude, non perché no, perché non c'è più il tanto di tenere aperto. E manca i 10 euro per chi non ne ha, sono tante, capito? Se tu consideri, io ho ordinato un pacco di PL, ma un pacco di PL misti, PL normali, adattatori, connettori N, fare l'OTN, un po' misto di tutto, una ventina di pezzi. Ho pagato 20 euro, Luca, 20 euro, una ventina di pezzi, ma guarda che con il Torienne, maschio e femmina, e gli adattatoriene costano parecchio. Ok, 20 euro, una busta proprio bella a te, c'è una ventina di pezzi su internet. Se tu vai a prendere un piede da lui, te lo fa pagare 4 euro, a poche. E 4 euro per 20 pezzi quanto sono? Sassari, Luca, tutto, qualsiasi cosa che tu vuoi comprare, perché il mercato è salito tantissimo proprio perché c'è molta concorrenza, invece di scendere lo fanno salire, capito, per poter vendere, però siccome non ce la fanno perché i costi sono tanti per gestire un negozio del genere, e quindi uno poi dice, beh, basta, io sono arrivato, finito. Devi considerare anche che Tonino non era così prima, aveva due dipendenti, lui stava sempre in ufficio, usciva ogni tanto al bancone, era sempre pieno di gente, è cavato tantissimo. Poi quando è morta la moglie lui non è servito più, proprio non è servito più, è uno zingaro. Uno zingaro, fa lo godino che gli arriva alla schiena, ce li ha dentro la camicia o il maglione, se li mette, se la mette capelli. Tutto senza denti. Un bel trasandato è lui. Parecchio, ma poi ti ripeto, il negozio è una cosa da non vedere, veramente. Era molto, molto ordinato, molto pulito, quando c'erano i dipendenti, c'era Massimo, lo teneva uno specchio, tutto in ordine, capito? Ma qua è un montinaggio, devi stare attento, quando entri hanno cagì. Ma è lui il padrone? Ma guarda, io non so se il marchio GBC è un marchio di concessione, non lo so, la verità non lo so, perché io ho conosciuto quell'azienda che si chiamava, perlomeno lui, la sua azienda era RR Elettronica, erano due soci, evidentemente due cognomi con la R, non lo so, RR Elettronica si chiamava, il marchio è sempre GBC, ma non, lui non può avere un'azienda dove si chiama GBC, la GBC era una multinazionale, quindi penso che sia il marchio che gli abbiano dato, capito? È un marchio di componenti elettronici, non so, beh, sicuramente sarà lui il titolare della sua azienda col marchio GBC. Sono lì tutti e due, Tonino c'era un periodo che c'era di tutto e di più, mentre Fusaro te lo ordina, però se ti dice te lo ordino, è il progetto che arriva, ti dice 5 giorni, una settimana, ti arriva, lui sembra che prenda in giro, te lo ordino, il tuo ordine non arrivi mai, così ha fatto a Gianni, così ha fatto a un sacco di gente, anche a me. Alla fine non mi ha manco cercato a dire guarda che è arrivato il pezzo, io ci sono andato dopo mesi e non mi ha detto guarda che è arrivato quel pezzo e ti serviva eccetera, capito? No. Mentre Fusaro avevo preso i microfoni, le MVP5 li avevo fatti portare io, le antenne, quelle che servivano, insomma, l'accobalato li avevo fatto portare io, qualche strumento eccetera, tramite Antonello. Però li ordina e li ha venduti e ne ha ancora, se qualcuno lo vuole. Non ha nessun senso della male lui, l'hai fatto male. L'hai fatto male, perché magari dandolo, dicendolo a Gavino, il fratello di Cosio, il cognato di Massimiliano, ci aveva magari pezzi da qualche altra televisione, da qualche altro televisore, e si poteva mettere a posto. Inizialmente me l'ha detto, cioè, bisogna anche però partire dalla fonte, capito? Controllarlo tutto e vedere un po' il perché fa quel difetto. Se la scheda è nuova, quel difetto non lo deve fare. Però me l'ha detto che bisognava partire dalla fonte, te l'ho detto a te, controllarlo dall'inizio, controllarti bene tutto. Però fa la pezzi, no? Me lo dicevi, ma avrei messo in macchina e l'avrei portato. Controllalo a tempo perso, guarda cosa c'ha, se si può riparare lo ripari, se non si può riparare te lo ieti. Però lui sapeva quello che doveva fare, capito? Peccato. Così è inutile stare a tirare molla, capito? Dai, perché non vado negativo, si abbiglia e luci, perché la gente non si prende in giro, per me, lui, per me, quella scheda era difettosa, è fatto male, l'ha demolito, me lo dicevi, se l'è passato a prendere, l'avevi portato la Gavino, scheda e tutto, ho comprato questa scheda, non funziona, controlla se è tutto a posto, se c'è qualche altro problema e fammi sapere. Devo buttarla via, no, perché quelle sono televisori buoni, capito? Io beh, me l'ho messo. Lo stesso mi va che avevano vissuto, ci va 20 anni. Lo stavo buttando via, poi cosa ti ho detto? Tu me lo controlli, te l'ho dato, da quando l'hai controllato tu, l'hai messo a posto tu, l'ho attaccata al muro qua in sala radio, ho messo le staffe, attaccata al muro, ho fatto l'impiantino con la canaletta, non si vede niente, e almeno c'è una TV grande, perché c'avevo quella piccola, non si vedeva un cacchio, capito? Darsi pure quello incide, capito? Io con 4.40 mi con questa, dal giorno alla mattina, cioè dalla notte al giorno, per dirlo chiaro, perché l'ho spenta e stava andando perfettamente. L'ho accesa una mattina, era una settimana e più che non la usavo, ma tutta revisionata la radio, quindi la posso lasciare spenta quanto voglio, i condensatori sono tutti ruffi. Sono andato a commutare in 40 metri e non commutava, capito? Poi ho controllato, non commutava manco le altre domande, in 27 avevo solo la ricezione, non avevo la trasmissione, ho detto ma cosa è successo? Un relè da un euro, ma siccome originale non si trova, allora è stato preso un altro relè simile a quello, è modificato, fatto il ponticello, perché questo mi pare il suo originale a 6 piedini e quell'altro era a 9 o 8 piedini, quindi è stato fatto un ponticello nei piedini, gli altri sono stati eliminati, capito, per poter avere la comunicazione dal comune ai 12 volts. è fatto meglio e la radio è perfetta, è a posto. A volte è una cazzata, capito, non ti fa andare bene le cose. Samsung da 52 nuovo per il salone, figurati, e ci avevo quello che hai riparato tu lì, che non avevo nessuna intenzione di spuntare su di un'altra TV. Però ho iniziato a andare male e poi alla fine l'ho comprato. Quando l'ho comprato, quella lì l'ho data a te, quella che hai riparato, l'ho riparata e l'ho messa qua dove ho la radio, capito? A parete, e va benissimo, anche perché c'ha la scheda, c'è tutto, quindi vedo tutto, è buono, anche i colori sono ancora buoni e va bene a televisore. L'altro vabbè, è un pianeta, quello è uno smart TV, è un computer, però quando fai 10-0 va la televisione, insomma, si girano un po' i pipiristi, no? Suocere, capito? È un MIFAR, è stato comprato da Ennas, quindi l'ho riparato anche per quello. Non riparandolo non l'avrei buttato, l'avrei portato su Massarda, come ricordo avrei tenuto lì sulla Bidellucci, se serviva per questi ricambi a qualcuno gliel'avrei dato. Però ho visto che l'hai riparato, vuol dire che il danno non era così grande e funziona bene, funziona benissimo. E l'ho comprato lo Smart TV 600 euro perché era in offerta, c'era un'offerta della Samsung, dell'LG, della Telefunken lì a Media World, se no costava 850 euro. Sì, ma c'è Antonia Gavino, cognato Massimiliano, di televisori di ultima generazione che sono bruciati letti, allucinante. L'ho visto uno tutto aperto ed è tutto a filamenti di LED, tutto a filamenti di LED, ma lo sai quanto mi ne? Dice qua, mi fatta se ne bruci uno, finito. Vabbè, il mio c'ha un anno di garanzia, l'ho comprato quest'estate, ci sono preso a giugno o a luglio, quindi ha un anno di garanzia, vediamo se rimane. Accendeva, te lo ricordi? Accendeva la lucetta rossa, però non accendeva il quadro, il video. Non so cosa gli hai fatto, gli hai cambiato, però il televisore sta andando benissimo. Lo dissaldi da sotto e glielo metti nuovo. lo diceva Fabrizio, ti facevi cambiare anche quel potenziometro che c'è, quel regolatore di tensione, chiamalo come lo vuoi, è lì il problema. Li dissalda uno per uno, se li segna e poi li rimette al suo posto lui. Certo, abbiamo la tecnologia, li fai una foto, ok, dove i fili sono attaccati, e poi dissaldi e li rimetti come erano. Ma non si cuci più, già li sei vari goci. È un regolatore di tensione quello, costa un euro, un peccato quello con l'alimentatore. Quelli erano buoni gli alimentatori, Fatti prima la foto col telefonino di come sono attaccati i fili, e non sbagli, anche se si risalda qualche filo, c'hai il prospetto, la foto, e lo rimetti dove era. Ormai ci abbiamo, io come ho fatto per quando ho preso il 440, lì io non ci avevo mai operato. Facilissimo attaccare con la scheda dei relè, perché c'ha quattro vittine, stacchi le spinette, tutto a spinette. Però prima di staccare le spinette e andare dal tecnico per farlo risaldare, è chiaro, mi ho fatto la foto, se no poi ti metti a toccare e a fare e fai casino. Quel coppecchio generalmente lo vuoto nuovo, c'ho anche la vernice originale, io verde così martellata, figurati, l'avevo trovata da Losa, ormai c'ho dopo del vuoto nuovo, gira al contrario, lo metti in un piano, lo fai tutto, lo addrizzi, se no quando a Roberto me lo vuoto tutto bene addrizzare, lo pulisco tutto e lo riferniccio, quello diventa nuovo. Ma il problema di poter fare quel lavoro lì, ti fai la foto, lui non dissaldi, come ho fatto io, mi sono fatto la foto, ho tolto tutto il circuito stampato, sono andato, mi sono fatto dissaldare, fare, capito? Perché è chiaro, ci vuole aspirastagno, ci vuole le cose giuste, se no fai casino se ti metti a saldare con un saldatore normale su un circuito stampato, rischi di fare da. Quindi sono andato al cognato di Calvino, me l'ha fatto lui, però tu già virai la cosa, il saldatore buono. No, non ce lo aspetto, sono andato a prenderlo, già l'ho sentito, per carità, e come ti ha fatto quella roba mia, a te te la ciacquanata, a me ce l'ha venduta, vedi, bello, e quello lì è una fesseria, ti ho detto. Quando vuoi, mi dai il coppecchio del vostro nuovo lupo, e neanche io se te ne servono. È bello questo è Trapano avvitatore a batteria. E ti ho detto, eh sì, infatti stavo guardando il gemello del mio. No, il mio va bene. Bisogna, però che te lo do a farle, perché da quando me l'hai dato non ho mai fatto pulizia, è lui. Ho detto che era una bombetta, sì, è gemello uguale al mio, però il mio da quando me l'hai dato non gli ho mai fatto nessuna pulizia, capito? Bisogna che te lo do per farle qualche pulizia interna. Non ce l'avrò almeno un anno, boh. Poi che siano due, ma non gli ho mai fatto niente io, è sempre sotto la scrivania. Quindi. Non c'è niente, intanto non ci ho mai messo niente qui lì, è come mi hai dato tu, capito? È come mi hai dato tu, perché visto che è un pochino più lento rispetto a prima, eh? È lento, non è potente, nulla, non c'è niente, c'è, cosa c'è? Nulla, lui non ci ha messo niente. L'altro è pieno di roba, ma i suoi massacri lì ce l'ha fare un trasloco, insomma tutto di dati eccetera, ma non me ne ha fatti nulla. Io mi faccio inserire il cluster da Stefano e basta, non metto niente, intanto è sempre spento, lo accendo pochissimo, a vedere, a volte quando lo accendo ci sono anche 200-300 email, me le guardo tutte, poi cancello tutto, annetto tutto e ne vado a raccolare. Abbiamo tempo, non devo fare niente. Io ieri ho lasciato il cancello quello del passo Carraio, gioco ancora per 2 ore. Dalle 10 del mattino finito alle 2 qualcosa. 2 mani, bello, ordinato, cambiato, ingrassato il motore, l'ingranaggio, tutto. Ho cambiato la lampadina alla fotocellula. E poi ieri sera ho dato la mano a loro a scendere tutti i tubi dei poggioli e buh, io ci gioco a pizzi, meno male a venerdì, meno male a venerdì, se no sabato e domenica ero a 2 ore. Sono stato stamattina al supermercato con il mio vicino di casa, poi siamo andati di Alba alla pensione aperitivo, a mezzogiorno e mezzo eravamo già a casa, a vedere cosa c'era, ma mercato oramai, e così ho preso un po' di pesce, ma non ho preso niente, un po' di carne e basta, e nulla, e siamo rientrati a casa. Stasera sono a casa fino alle 8:30, poi vado nell'aria che entra alle 8:30 e esce a mezzanotte, e me ne sto lì un po', magari riesco a farmi un giretto, non lo so, forse pure mi avvicini lì a vedere l'azienda, non lo so. Allora, stamattina il tempo bello, non sembrava d'estate, adesso c'è freschetto di nuovo, la sera c'è freschetto, c'è umidità, capito? E vabbè, però il tempo ancora è buono, se ci lascia fare qualcosa fuori. Quello è il problema, bisogna stare attenti quando si esce, coperti al punto giusto, dai. Però l'importante è non uscire la sera tardi a maniche corte, così, perché c'è freddo e c'è umidità, anche a me mi prende al collo, sotto gli occhi. Vabbè. Ascolta, Lello poi l'ha dato il bar, ce l'ha sempre lui. Ho visto il box del mercato vuoto, c'è scritto in allestimento, bar in allestimento. Al mercato, ha vinto l'appalto per il bar del mercato, Lello. L'appalto, hanno fatto andare l'appalto e ha vinto lui e un altro, sono 2 bar che ci sono lì. Infatti sono tutte e 2 in allestimento, nel senso che il box è vuoto, capito? Perché io gli avevo detto quello che c'ha lui, è per Ilaria, no? Che è piccolino, gestibile, una persona sola, eccetera. Però mi aveva detto che stava aspettando che aprire quello nuovo. E io gli ho detto, parlare un altro ti avviso. Però non mi ha più detto niente. Ho visto stamattina che il posto che lui gli hanno assegnato non è venuto, è chiuso, quindi non ha fatto niente. E gli ha detto gradito sempre chi? No. Ma cosa fa? Ma non toccarlo già. Ho capito. Sì, vedo. Ci vado poco anch'io, però quando ci vado è sempre lì. Mi ricorda il signor Tino Grassi che ci aveva la sede al bar di Santa Maria, e l'ufficio suo era lì, capito? Andavano a chiamarlo lì e tutto da lì, l'ufficio suo era quello. E ancora ci sono i zanzari, lo so. Sta facendo caso ancora. Io ce ne hanno fatto. Questo è stato conosciuto tuo fratello, quello che è incontinente, Antonio. Ehi, parallelo. E al gioco. E vabbè. Però è di quella razza lì. Ehi, ehi. Conosciuto da lì con Stefano. Proprio a mossi. E vabbè, devo sai come lui. È fatto da gatto, non ha mai questo gabbo. E non sei così. È così, quanto mi hanno combinato a me. Gente che prima gli dà sempre dato l'orgoglio e poi trattato a calci nel sedere, a sparlare dietro, a parlare alle spalle, capito? Alla fine, guarda, ti dico io sto benissimo così da solo, ho cambiato tantissimo di carattere, di umore e tutto, non mi interessa più di nessuno. Io lavoro, nonostante sia in pensione lavoro, sono buttato in questa impresa condominiale, dare una mano a loro, ho degli impegni che ho preso e lavoro, la giornata mi passa così. Il sabato mattina, ti ripeto, esco con il mio vicino di casa, che già conosci fratello, tu sicuramente, il fratello di Pompetta, esco con Gaetano. C'è una passeggiata, stamattina figurati, è sceso a piedi lui al mercato, presto, aveva lasciato le chiavi della macchina, ha detto, lui, tu tanto c'hai il cane, eccetera, si è fatto il cane, stamattina tutto, poi scendi a, ce ne saliamo assieme, così ho fatto. Sono sceso con la macchina sua e poi siamo saliti assieme, una persona a modo veramente, anche più grande di me, anche lui in pensione. Però gli altri, io quando ho smesso di lavorare ho cambiato totalmente carattere perché ero molto stressato, ero molto arrogante, molto... c'avevo un sacco di cose, hai capito? Perché il lavoro mi stava uccidendo, mi stava ammazzando, non ce la facevo più. Adesso sono rilassato, tranquillo, sereno, non ho problemi di niente, né fisici, né... nulla, capito? Di niente, proprio sto benissimo alla grande e quindi è chiaro che rimane più paccato, più tranquillo, eccetera. Anche quello è molto, molto importante. Però le amicizie, meglio solo che male accompagnato, è proprio vero, è la pura verità, capito? Sempre chiesto tutto di più e io ho sempre dato. E poi per che cosa? Per farmi sempre a pezzi, capito? Per prendere, sentire a uno è giunto tizio e ti ha fatto a pezzi, e è giunto a Guido e ti ha fatto a pezzi. Non so se gelosia, se ma è proprio una cosa schifosa, capito? Perché se uno ti cerca, perché devi sempre andare a cercare gli altri, a fare, a mettere in mezzo discorsi che non... Quindi, per evitare queste cose, cosa tanto l'hai eliminato? Uno l'hai eliminato a Bogume, che era lui l'ha girato l'Uguri, ma non di Uguru, capito? Si è messo a parlare male. Perciò lui, ti ripeto, meglio solo che male accompagnato, sto da Dio. Moralmente, fisicamente, la busciacca era sempre piena, non me ne ha fatto un cazzo di nessuno. Tu lo sai benissimo, ti ribadisco, io quando faccio una cosa pago e boh, non voglio più sentire niente a nessuno, non mi faccio fare più niente a nessuno, pago e basta, capito? Io per mettere a posto il 440 un paio d'ore di lavoro, mi ha chiesto per dire tot, no, troppo poco, tieni, e mi ho dato di più, perché so cosa vuol dire quando uno lavora e fa le cose, perciò non chiedo più niente a nessuno, pago Luca, pago Uridina, me le faccio fare, non me la sputti nulla, capito? E soprattutto non do niente a nessuno, c'ho l'armadio, ma c'è la roba che c'ho, pulito da poco, mi ci ho buttato una busta di roba che non usavo più, cavi, cavetti, microfoni vecchi, di tutto e di più, una busta ce ne ho buttato, c'ho l'armadio di cameretta qua delle radio che è ordinatissimo, ho messo tutte le radio in fila, dentro, microfoni, microfonini, strumenti, strumentini, non do più nulla a nessuno, ti si impicchiano. Ma non lo dico per presunzione, tu mi conosci forse meglio di tutti, capito? Come è successo tempo fa, no? Forse un anno fa, non lo so. Questo di no, era di prima, ti ho dato tutto il materiale che ti serviva per costruirti le antenne, per fare quello, per fare quell'altro. Io sono sempre comportato bene. Poi Andy ha fatto un pranzo, una cena, con amiche due, che a me mi fai a pezzi. A me me l'hanno detto, fuori dai coglioni, vai, impiccati. Perché sono così, le vere amicizie non ce n'è più. Capito? No, io andrò a mangiare a casa del latte, poco e nulla, sono latte e sono sempre giunti in occhi. Quindi ho dato un taglio già da diversi anni, ma in questo periodo proprio, ti ripeto, sono tranquillo, sereno per i fatti miei, non devo dare conto a nessuno, non devo dare niente a nessuno, ognuno per la sua strada, ciao ciao con tutti, però non, perché intanto è un mondo di giramenti, soprattutto la radio, vedi, ci sono poco, io sto via a fare due chiacchiere sul 10, perché a volte entra Giulio, mi chiama, rispondo, con Marco, però non ne vale più la pena, è meglio ragionare, ti ripeto, che con gente che prima ti guarda in una maniera, poi come ti gira le spalle e ti pugnala, e io queste cose non le ho mai fatte, io ho sempre affrontato la realtà e tu lo sai, sempre, non ho mai tenuto nessuno, se ti voglio una cosa te la dico in faccia, non sono mai andato a parlare alle spalle, invece a me sempre alle spalle andavo a parlare, e tuttora c'è qualcuno che ancora ogni tanto ci prova, perché mi è arrivato all'orecchio qualcosa, ma non mi interessa, non mi interessa, vivi e lascia vivere. Io manco conoscenti faccio, te l'ho detto, sono da solo, è una decisione che ho preso, non vado a disturbare nessuno e nessuno viene a disturbare, capito lui? La realtà è quella, perché poi diventa una cosa troppo sporca, e si buono in mezzo sempre senza far nulla, mi hanno sempre messo in mezzo senza fare niente. Capito? Perché, non so perché, ma comunque, è stato sempre così. No, quando ho dovuto chiarire, io ho preso il telefono, mi ha giovato anni fa, no, ostinamente. Così. No, ma, no, allora, vediamoci e chiariamo, perché le cose non mi piacciono. E devi chiarire alla fine. Non devi aspettare, fatto a pezzi. No, io affronto la realtà, non ti mando nessuno io. ho solo quel difetto, che non temo a nessuno purtroppo. Quindi, chi è? C'è qualcuno in PMR? Va bene, va bene, va bene. Pensiamo a viva la giornata. È così bello che gioco rilassante che non hai idea. Sto capendo poco, cosa vuol dire? Lei è pronto per andare per pensione, pronto per andare in pensione. Provi a fare due calcoli matematici. Ha fatto i calcoli matematici, ho aspettato altri sei mesi e ti dico che sono veramente, ma veramente, veramente con la V maiuscola contentissimo, perché sto prendendo gli stessi soldi che prendevo lavorando. Io mi sono trovato anche apprendistato, figurati. Mamma diceva sempre, soprattutto quando ero a 16 anni, proprio perché ho iniziato a 16 anni a lavorare al Bar Cristallo, ero, mi sembra che avevo appena finito le medie, perciò mamma diceva sempre, se un attimo ho scritto, ma tu fallo travaglià, non lo pagà, che di nervi do qui a fine ghetta, Edo, non ha bisogno, mamma ce l'ha sempre avuto, su che stava bene, e sta bene ancora, per carità di Dio. E diceva, basta che lo assicuri, basta lo assicuri, mi sono trovato anche quei contributi. Infatti dal 16° anno al 18° anno mi hanno inserito come lavoratore precoce, mi hanno dato 2 anni di scivolo, perciò. E fatti vedere, dai. Ogni tanto mandami qualche messaggio, ok? Un abbraccio grande, buon fine settimana, buon divertimento, buon tutto e ci sentiamo, ok? Io sto qua, aspetto se entra Giulio, se no tutto tutto mi fischio. Ciao! Ciao Lugari, è tutto acceso qua, ciao ciao! Allora, Moncarolo. Claudio, ci sei? Claudio, ci sei? Sì, sì, sono qua. Sono rientrato. Sono andato a continuare la spesa che avevo ricevuto stamattina e non completata stasera. Ma io ho fatto ieri e poi stamattina sono andato al mercato a prendere un po' di, volevo prendere un po' di pesce, in verità, ma non è via via. Facciamo le sardine belle, belle. A 9 euro, ma come si fa? C'è la vergogna, ragazzi, una volta le regalavano, quasi quasi mi pagavano anche per comprarle. Non è possibile, le sardine a 9 euro. Comunque. Non lo so dire, ho comprato tutta la verdura, tutta la frutta, eccetera. La pasta, queste cose così, no? E stasera sono per prendere la carne, perché questo negozio qua c'è la casa. La carne mi è piaciuta perché l'avevo già comprata prima, mi è piaciuta, ho fatto bene, anziché comprarla dopo la compro solitamente, stasera la voglio comprare qua nel negozio. E mi dico, devo dire, ho preso dalla pizza del pettino di vitello e altre cose. Devo dire che quella carne mi piace, finché mi piace la ricomprerò sempre qua. Io l'ho preso al mercato, carne rossa e carne bianca, per tutta la settimana, tanto poco ne mangiamo, però l'ho presa stamattina, ma non ho vergogna, ma infatti aveva una gacetta e è rimasta sicuramente. Non l'ho fatto anch'io, ha detto no, ma mica è bella, no, non mi interessa. non mi interessa, mi escono 2 chili di carne, assolutamente, ho preso 10 euro, ho fatto fare 2 pacchi da 5 a 5 di carne di cavallo, bella, bella, lì da Pontiche, ho marcato, ho preso delle fettine di pollo belle, troppo cara, non si fa comprare un chilo di giardina che non entra nuda a 9 euro, non te nate, no, di un po' ho preso bello, ho già messo i fritti, 7 euro, bello però, c'è un 700-800 grammi sarà, per noi già basta, fare un'insalata che piace a mia figlia, quindi spesa così ho fatto, ci abbiamo preso un caffè lì, al bar che c'è in fronte al mercato, a mezzogiorno e mezzo via a casa. Tanto cosa vuoi fare? No, io già a metà settimana avevo comprato anche un porcetto intero, l'abbiamo messo in freezer, da Branca l'ho comprato via al mercato, 74 euro avevo preso. 7 kg qua, 6 kg e 700 mi sembra che era per l'esattezza, e su di 74 euro. E dunque, ma siccome noi carne grassa non è che mangiamo molto, a me piace la verità, ma non più di tanto, cioè mangio un pezzetto e non è che mi abbuffo. E dunque ho voluto comprare un po' di carne meno grassa, come pesacchino, di vitello, pezzino di vitello, tacchino, queste cose qua, no? Perché non è che puoi mangiare sempre roba grassa, assolutamente no. E vabbè, comunque è diventata cara la vita, è veramente cara. Cazzo, io mi ricordo tanti anni fa, con 30 euro ti facevi la spesa, 35 euro ti facevi la spesa per tutta la settimana, parlo della batteria, Invece oggi tu vai e non ti passano 100 euro, sarebbe pure 120. Ma comunque, siamo esami. E di dove sia Mesiane? No, anch'io ho preso, no, porcetto, non mangia nessuno qua. Ho preso invece il porcetto perché a me piace integrare. Metà di coso di agnello, ma l'ha tagliato tutto a pezzettini per fare integrame con gli olive. E poi spezzatino lo stesso di manzo, perché mia figlia, se dici spezzatino di maiale, non te ne mangia. Cose così, ma avrò preso 4-5 cose, 6 cose, non stesso, 60, non so se da 65 o 68, figura di due, non hai proprio ragione, ma se prima io ci avevo 50 euro a volte a fare la spesa, andava mia moglie a fare l'elenco, ma andate all'Eurospimi, poco ci vada la cora, Dio, a meno che non ci siano delle offerte, ma non si può. Cioè spendi 30-40 euro, non hai comprato nulla, a volte si incatta, la vai tu, perché mandi a me? Perché tu compri, non guardi le offerte, ma io non posso stare by dandy, quello costa meno, quello costa... Ma c'è l'elenco, quello io compro, il primo che vedo prendo, ma magari c'è l'altro che costa meno, vai tu, non mi manda più a me. Sì, no, è mancata la cosa, perché io di solito la spesa degli alimentari, eccetera, la faccio da anni, la sto sempre facendo lì via Pascoli, no? Alla compra di via Pascoli, eccetera. Ma stamattina cosa ho comprato? Ho comprato un po' di frutta, ho comprato cachimela, banane, clementine, e poi cosa? Ed è per Pere William, ho preso, e un po' di verdura, tipo iceberg, e una confezione di carote, poi cos'è che ho comprato? Ho comprato anche 3 confezioni d'acqua, l'acqua per bere, perché l'acqua per cucinare la compro qua, che costa 17 centesimi a bottiglia, quindi questo è un nuovo negozio, mentre invece la compro che costa 29, la meno che costa, perché, ma di quella oggi non l'ho comprata perché abbiamo già la scorta. Per dire, sono totale più di 40 euro, 43 qualcosa. Ma è una vergogna, ma è perché ho fatto un pochino di frutta, qualche cosa di verdura, eccetera. Vabbè, c'è l'acqua, la cosa. Ci sono tre confezioni d'acqua, che solo l'acqua costa 9 euro, è anche la verità, perché costa 3 euro quando va bene, acqua panna, lo beviamo, costa 3 euro a confezione. Perciò si può immaginare, basta sempre 43 euro, ma non è possibile. E anche l'acqua costa, noi compriamo quella Sant'Anna. Costa lo stesso, acqua gassata non la beviamo, capito? Perciò la verdura costa, Giulio, la verdura, anche mia moglie si lamenta molto, perché lei magari si occupa più della verdura, io vado a fare la spesa così grossa, capito? Però è la verdura che costa, la verdura è molto cara, perché con il problema che c'è stato della siccità, capito? E anche insomma la verdura costa parecchio. Io lo stesso, io non voglio prendere la verdura, sedano, carote, la lattuga mi piace molto, quelle coppette appunto di iceberg, le cose, la belga, ma costa a me, costa parecchio, costa tantissimo la verdura. La spesa maggiore che incide è molto la verdura, perché il pane, guarda, io il pane lo prendo una volta alla settimana, una volta alla settimana vuol dire due panini, perché noi non ne mangiamo pane, mangiamo quelle fette biscottate integrali, sia io che mia moglie, e mia figlia mangia il pane bovetto non integrale, quello era mulino bianco, perciò pane proprio io non ne prendo di nada. Però è diventata cara, cara, cara, cara la vita, mamma mia, allucinante. Davvero, troppo è salita il costo della spesa, è troppo alta, non è possibile. Ma comunque, tu immagini che quelle persone che non hanno possibilità per comprarsi da mangiare, come devono fare? Ma come devono andare a rubare per forza per poter vivere e alimentarsi? Non è possibile. Ma comunque. Oh, io, poveri giovani, se continuiamo di questo passo, quando vanno a lavorare, cosa dovrebbero guadagnare? 5.000 euro, aspetta, mi sente la televisione, e c'è qua una partita, ecco, ne ho tolto il video, cioè ne ho tolto l'audio, c'è la partita Catanzaro-Catania, sta vincendo, no, Catanzaro, Casertana-Catania, sta vincendo Catania 1-0. Purtroppo, e lo dico, non devo fare, ma comunque si avvisare, sempre bisogna dire questo, si avvisare al manco. Ma io me ne frego, ma si può andare avanti ancora, quando non si può più andare avanti, ve lo ricovero, io te lo dico, non so, però il costo è troppo alto, ma io, perlomeno mia figlia lo fa nella macchina grande, io ne metto 20 euro di benzina, perché una benzina, una gasolio, mi dura tantissimo perché la uso poco la macchina, la piccolina. Mia figlia fa il pieno per tutto il mese. Infatti questa mattina stavo a mettere, dicevo, ma un'altra volta 70 euro il pieno. Adesso quasi 80, mancava pochi spiccioli e 80 euro per il pieno della 147. Ma ti rendi conto che il gasolio è a 1,4 e rotti? Cioè, è 1,6 la benzina, cosa ha messo il gasolio glielo regalano? Cioè, non se ne accorge neanche, capito? C'è questi prezzi che salgono e scendono del gasolio e della benzina, allucinanti. Per forza, con tutte le tasse che si pagano, ma dimmi tu se si devono pagare le tasse, grazie a federazioni che noi stiamo mantenendo da 50 anni, non è possibile. Ma sapete che c'è un contributo ad una nazione, non mi ricordo quale nazione sia, frutto dalla benzina italiana, cioè dalla benzina che consuma l'Italia. Incredibile. Purtroppo è così, purtroppo. I tempi sono duri e meno male che riusciamo riusciamo a reggere, se no guai. Tu immaginati queste persone che poveretti vivono tutta la giornata, che non hanno un buon stipendio o perlomeno una buona pensione. Come faranno la povera gente? Tutto sommato ci possiamo considerare fortunati noi, dai. Sì, sì, è chiaro che ci lamentiamo, perché se continuiamo in questo passo, a un certo momento la crisi arriva per tutti. Non è possibile, ma non è possibile. Vabbè, comunque. Oh, guarda, io mi sono parlato con Luca poco fa proprio di questo. Io ho dato sacrifici, li ho fatti da ragazzino, oggi che ho quasi 60 anni mi sono trovato molto molto bene, molto molto bene, perché ho una buona pensione contributiva, sto benissimo grazie a Dio, come che stia lavorando, guarda, pochi spiccioli proprio a come quando stavo lavorando, proprio pochissimi spiccioli, pochissimi spiccioli. Mi sono trovato molto bene, perché quando vai in pensione, giovane, con 42 anni i contributi, vuol dire che hai dato, non hai giocato, non hai detto, raccontato farfalle, hai dato, perché l'INPS non ti manda in pensione, si ruba birra, non canta, ci deve essere la carta che canta, e grazie a Dio ti posso dire, Giù, che sto bene perché ho una buonissima pensione. Pochi spiccioli dello stipendio che prendevo lavorando e facendomi il mazzo, travagliando in divesa, con le intemperie, al caldo e al freddo, capito? Quindi sono andato di lusso, molto bene, però me li ho lavorati, non me li ha regalati nessuno. E quindi giustamente, come dici tu, chi se ne ha zappato ha qualcosa, chi non ha zappato è un vero casino, perché le pensioni, se non hai i contributi, sono molto, molto, molto basse. In effetti è così. Vabbè, comunque, ripeto, io penso alla gente che non ha molte, diciamo, molte condizioni economiche buone, ma io, grazie a Dio, già sono riuscito nel corso degli anni di lavoro a fare una riserva in banca, e devo dire che non le tocco mai perché vado avanti con la pensione e mi basta tranquillamente, non ci sono problemi, però ed è una riserva anche importante, se vogliamo, ma non, e devo dire che fino ad oggi, da quando sono in pensione, non l'ho mai toccata, no? Anzi, qualche cosettina è cresciuta anche. Per cui io lo auguro a tutti quanti che riescano a andare avanti come vado avanti io, guarda. Quello che interessa è la salute, oltre ai soldi, interessa la salute, quella è la cosa più importante. Comunque, ci andiamo a campare, dai. Viate a campare, sì. È così, se non c'è la riserva, se non ci sono qualcosa da parte, io quello che mi hanno dato, sinceramente l'ho manco toccato ancora, anche perché mia moglie non fa toccare niente, quindi se no potevo tranquillamente farmi qualche viaggetto o comprarmi qualcosa che mi serviva, invece non ho arrivato nulla, ho fatto mettere a posto quella macchinetta che ho comprato e basta, da Roberto, non ho fatto altro, il resto si vive con quello che entra, quello che da parte si lascia stare, perché domani non sai mai come gira il tempo, capito? Non si sa mai, meglio sacrificarmi ancora che sono giovane, no? Come ti ho detto, cioè, sto facendo queste cose del condominio, mi pagano per farlo, quindi anche quello è sempre messo lì, aggiunto per e ti dico che ne avanza. Sto meglio adesso che prima. Sto meglio adesso. Io avevo una rata fissa prima, quando andavo a lavorare, di circa 250-300 al mese solo di spese per andare a lavoro. Ok, perché da quando poi ci hanno tolto le macchine, io andavo al posto di lavoro, che quindi era Sorso come prima tappa, timbravo e poi dovevo andare a Santa Maria Cugina a prendermi la macchina di servizio. Tu immaginati con la macchina mia le spese che io ci mettevo tutti i santi giorni, capite? Anche quello è una spesa. Ma macchina no, io prima di questa grande avevo un medicin, adesso l'ho rifatto e l'ho preso questa macchetta, ho pensato, ma che me lo fa fare? No, a me mi basta, tanto io non ho nessuna intenzione di correre, non ho nessuna intenzione, e poi una chiesa porta la persona, questa volta è nuova, pensa che ha appena 37.000 km, sono già 8 anni e mezzo e ha appena 37.000 km. E dici no, cosa la guido? Una passeggiata la domenica, così quando capita, quando mia moglie ne ha voglia, però la uso solo la qui, anche davanti a Bottega, poi durante la settimana a tassa gli vado a piedi, dappertutto, certo parcheggio nei clubi, eccetera, che me lo fa fare. E poi mi piace anche camminare, sinceramente parlando, perché oltre al fatto che fa bene, no? Così tutti la fanno, l'altra è acostumata, ma questa non me la metto, ho sempre avuto macchine che consumano oggi, però questa è una delle macchine che consuma meno di tutte, tra quelle che io ho avuto. Io ho avuto in altri contatti, ho avuto 124, 128, ho avuto la Alfa Romeo, ho avuto la Cadet, che ho avuto lo 350, ho avuto anche la Panda. Quella era il Fabio, quella era in gamba, quella non costava proprio niente, ma questa la Citroen, la Citroen, dove la vedo, consuma in maniera normalissima, così senza essere un consumo esagerato, va bene così, e mi sta bene, fin quando funziona la macchina mi tengo sempre questa, non ne cambierò più, fin quando non ricomincia a darmi fastidio, quando me la fastidio per spendere su di riparazioni, intanto male me la cambio. Infatti io non faccio riparazione, c'è una cassetta, è nuovissima come macchina, anche perché la usiamo poco, l'ho usata molto io, i chilometri che ci sono li ho fatti io andavo a lavorare con 2000, capito? Alla fine mi sono stufato perché mi stavo sfasciando la macchina, e c'era un pezzo anche di strada bianca, eccetera, allora mi sono comprato una 600, buonissima, proprio era di una ragazza che non la usava perché l'avevano tamponata. Io l'ho comprata così, l'ho portata, l'ho fatta tutta mettere a posto, l'ho fatta tutta rifare, capito? Per abbassare un po' le spese, perché una macchinetta è un 1100 a benzina, ma consuma la metà della 147, 147 sedili, cioè 150 cavalli, consuma come una dannata, cammina ma consuma, e poi insomma i costi sono molto più alti. E ho preso quella macchinetta. Questo è successo perché? Per colpa degli altri, perché io quando sono entrato nel 96, che sono tornato da Cagliari, perché prima era Cagliari, dal 91 al 96 ho fatto Cagliari, e nel 96 quando mi hanno trasferito a Perfugas, all'impianto del catalizzatore di Perfugas, io c'avevo il V40, nuovo, perché viaggiando a Cagliari dovevo avere una macchina grossa, capite? Una macchina io l'ho venduta a un colonnello dell'aeronautica di Tempio, che era una nuova a dire poco, solo c'era 1000 km, siccome lui era già in pensione, le serviva per spostarsi eccetera, e gliel'ho venduta. L'ho venduta a 6.000 euro, tu figurati, una macchina appaiata, una barca di quattrini, bellissima macchina, V40 Station Wagon. Io l'avevo comprato sempre per viaggiare con sicurezza, l'Audi A4 a trazione integrale, quindi 4 ruote motrici. Quella l'ho versata con 400.000 km per comprare l'Alfa, figurati, perché viaggiavo tantissimo allora, le sedie erano quelle, dovevi andare, ho fatto anche Olbia, ma il problema della macchina, dell'Alfa, che poi ho usato quella, è per colpa degli altri, perché io ho sempre avuto la macchina in servizio, da quando sono arrivato alla serie di Sassari, sempre, la macchina a casa, che è stata a me, fiorino nuovo, ritirato alla Fiat, e tutto. E così agli altri, te la voglio spiegare. Ma quando un'azienda vede, perché io nel 96 sono arrivato a Perfuas in ESAF, e sono stato sempre ESAF, non è fallita l'ESAF, sono passato in Abbanoa, da Abbanoa poi ho deciso di spostarmi alla depurazione con Acciona, che ancora oggi c'è la multinazionale che segue quelle cose lì. E ho sempre avuto la macchina di servizio, sempre, per colpa degli altri, che ognuno con la macchina si faceva e fatti i trucchi. Un'azienda un po' se sa che quel tragitto, quella tua macchina, in 6 ore 40, deve fare quel tragitto, deve consumare tanto, e che al mese, parliamo di un mensile, quando tu porti la documentazione del mezzo, ok, sa che quella macchina deve spendere 300 euro, 400 euro di gasolio, e ne prendi 600, 700, c'è qualcosa che non funziona. Ho fatto inizialmente hanno messo tutti i controlli satellitari, i percorsi eccetera, hanno controllato tutto e c'era il 50 o il 70% delle persone che usava le macchine per farsi i fatti suoi. Ma io le macchine deposito per deposito, sede per sede, distretto per distretto, e siamo rimasti tutti a piedi, capite? Poi ha iniziato a lamentarsi, sindacati contro sindacati, ma io devo stare dentro i 50 km perché se 51 km me ne vuole la trasferta, ma cagliati, la gui per la due si è successo quello che è successo. Bastava usare le cose come stavano, okay, stavamo tutti bene, tutti bene. Io usavo la macchina quando ero a riposo, la mia personale, capito? Se no la macchina in servizio, arrivavo parcheggiata e via, si prendeva l'indomani per andare al lavoro. Quando ero a riposo, parcheggiata, usavo la mia, invece l'altra la trattavano per farsi i fatti suoi. Allora ho iniziato a mettere tutte le scritte satellitari, controlli a tappeto, qualcuno ha preso verbali, ammonizioni, quasi lettere di licenziamento, pagati i danni di macchina, di tutto è successo, di tutto e di più. Questo perché? Per colpa di quelli che sono furbi, capite? Ma ci sono queste persone così, no? Che credono di essere troppo furbi, poi invece in realtà si stanno tirando la zappa ai piedi loro stessi. Non è possibile. Aspetta, che quando spengo il televisore, quando schiaccio la portante, siccome è vicino, mi si accende il televisore. Adesso l'ho abbassato il volume, così se no da fastidio. E stavo dicendo, questa gente qua non si rende conto che la macchina dell'azienda serve per il lavoro, e dunque uno non si deve approfittare, ci mancherebbe altro, perché l'azienda non sono degli stupidi, noi proprietari dell'azienda, prima o poi se ne rendono conto e te la prendono la macchina e ti mettono in condizione magari addirittura di usare la tua se vuoi lavorare, perché sono capace di ricattarti. Purtroppo così che qua la gente, oi, la gente è cattiva tante volte, le persone serie ci sono, perché ci sono, indubbiamente, ma non sono tutti serie, le persone, diciamo che almeno il 50% delle persone non sono serie, perché io le considero anche persone poco serie, quelle che fanno quelle cose lì. Infatti, quando un'azienda ti mette in condizioni di star bene e tu ne approfitti, è chiaro che l'azienda stessa ritorna indietro, perché non è possibile fare una cosa del genere, non è possibile, capito? Non è assolutamente possibile. Gente che la usava per andare in campagna a caricare fieno, a comprare mangime per gli animali, e quello e quell'altro, certe cose non si fanno. Non si fanno in modo più assoluto, perché ci sono dei costi che l'azienda ha a darti la macchina, agevolati eccetera, perché le aziende le macchine le lasciano in deposito. Se tu c'hai sede ad Alghero, vai ad Alghero con la macchina tua, e così è successo. Io che avevo sede Sassari, e quando poi mi hanno trasferito da Trucco Reale, cioè trasferito, no, mi hanno dato un altro incarico, mi hanno proposto di fare quel determinato lavoro. Io avevo la macchina, andavo a Canica, perché la sede era lì, ok, al depuratore di Canica, prendevo la macchina, sono a Sassari, d'estate andavo in moto, figurati. Andavo, prendevo la macchina e partivo nella mia zona. Poi quando sono accorti che le cose non funzionavano così, allora hanno diviso tutte le macchine, tutti i mesi, distretto per distretto. Io purtroppo, anche che al distretto 6, che era Sassari, sono capitato al distretto 7, quindi Olbia Tempio, e la mia macchina era Santa Maria Cluvinas, e dovevo viaggiare con la macchina mia. Capite? Purtroppo per l'incarico che avevo non mi potevo neanche accoppiare a colleghi perché io avevo altre esigenze, quindi dovevo viaggiare da solo, perché potevo entrare prima, me ne potevo andare dopo, potevo fare altre cose, trattenermi, roba d'ufficio eccetera, quindi mi dovevo arrangiare da solo, perché gli altri a quell'ora, solo 2:10 ce ne dobbiamo andare, ma io mi devo trattenere, non ho ancora terminato, devo fare relazioni, devo preparare i buoni per l'Autosburgo, devo fare i rifornimenti alla chimica sarda, devo mandare quello, devo fare i fax, quindi cosa devo dire? Aspettatemi, no, cioè, io non ho mai viaggiato con nessuno, perché purtroppo non potevo farlo, quindi non potevo neanche dividere il costo e le spese, e io ogni mese, non c'era niente da fare, avevo l'agevolazione, appunto, che facevo il rifornimento lì alla Cuete di Marrissa, capito? Con la macchina mia, però prima rifornivo a poco, poi mi sono praticamente organizzato e facevo un pieno al mese, quindi già il pieno della macchina e olio e tutte le mattine colazione e le sigarette e magari trovavi qualcuno e capito, 250-280 euro al mese partivano come niente, per colpa di chi non ha fatto le cose fatte bene, assolutamente. Adesso mi pare da poco, proprio ieri, oggi è sabato, no, giovedì, mi ha chiamato un collega che tra l'altro è passato responsabile di quel lotto, come ero io, non so se ha preso il posto mio, ma mi stava appunto raccontando che le cose non sono cambiate, anzi hanno peggiorato, perché a qualcuno l'hanno anche mandato a casa perché l'hanno trovato in flagrante dopo che ti avvisano 2, 3, 4, 5 volte, tu tutte le mattine ti fermi mezz'ora durante l'ora del lavoro a fare colazione, a leggerti il giornale, a far vedere un amico, l'hanno pizzicato dopo 2 ammonizioni, alla terza l'hanno mandato a casa e ha perso un posto di lavoro d'oro. A cosa serve questo? Quelle sono persone che sono dei discendenti, per conto mio, non è possibile che una persona possa essere così. È già difficile, ragazzi, riuscire ad avere un posto di lavoro e tu che ce l'hai, per dire, ti comporti male e ti fai licenziare. No, non è possibile. Quello come minimo è pazzo, come minimo. Non è possibile che uno possa confermarsi così. Cosa vuoi dire qua? La vita è stravolta in tutto e per tutto. Prima non era così, no, non era così, c'era più serietà, c'era più voglia di lavorare, oggi invece c'è poca serietà, soprattutto c'è molta pigrizia, no, ne hanno voglia, magari vogliono fare gli studi, quello sì, però senza lavorare, senza faticarsi, no. Oi, è proprio il caso di dire, sempre passati che non tornano più, come dice la canzone. Non so, però è un peccato, c'ha 46 anni ed è anche una bravissima persona. Io sai quante volte quando lavoravo glielo dicevo, perché anche con me faceva la stessa cosa, facevo la stessa cosa, magari avevamo un'organizzazione dove a quell'ora io davo l'appuntamento, ci vediamo a tal ora per dire a Badesi, mi raccomando perché deve arrivare a Pittsburgh, perché deve arrivare la squadra per fare il lavoro e noi dobbiamo organizzarci perché dobbiamo fare degli spostamenti. Tutti arrivavano puntuali, lui arrivava sempre un quarto d'ora, 20 minuti in ritardo. Ma già ho avuto traffico e mi sono trovato, a me non me ne ha fatti nulla. Non me ne ha fatti nulla che tutti fermi, ammarrita, prendi il caffè, le sigarette, si buono un euro alla macchinetta, sei in chili, sei in divisa, sei già, al momento in cui tu timbri, prendi la macchina a sorso e devi venire da me, perché appartieni al mio lotto, ok, anche se hai la macchina, perché a squadre di due, ogni due persone avevano un mezzo, quindi immagina le due mezzi che vedono, capito? Perché poi fanno gli spostamenti, eccetera, un'organizzazione un po' particolare. Dal momento in cui tu timbri e sei entrato in servizio, hai la macchina di servizio, non ti puoi fermare da nessuna parte. Arriva da me, arriva al posto di lavoro, ok? Poi devi uscire un attimino, sei coperto da me, c'è il bar vicino, vai a piedi, c'è quel distributore grande che hanno fatto bellissimo lì nella strada, proprio era a 20 metri, a 50 metri da dove noi avevamo l'impianto, ti ho mandato io, vai, prendi il tuo caffè e muoviti a venire, ma non ti puoi fermare così, non ti puoi con la macchina in vista lì nell'autostrada, nella strada, insomma nella panoramica, che la vedono, la fanno, poi sai che c'è satellitare, oppure te prendi la mia, io non avevo satellitare, a me me l'avevano messo il primo periodo, poi me l'hanno tolto, non ne avevo il satellitare e non ne ho mai approfittato, né prima né dopo, assolutamente, a me me l'avevano tolto, quindi dopo mi sono dato la macchina mia, vai a prendere questo caffè e muovi da venire, 10 minuti a torre, no, si perdeva sto ragazzo, si perdeva, però era una bravissima persona, lavorava, educato, una persona presente, non ha mai creato problemi, stava dicendo proprio giovedì questo mio ex collega che l'hanno licenziato, ha portato tutti i ricordi a Giovanni, perché si chiama Giovanni. Ma te cosa ha combinato questa volta? A casa, come a casa? Finito. Oh. Quattro volte l'hanno avvisato, a casa. E quelli non perdonano, Non perdonano, assolutamente non perdonano. Luigi Baletto e c'ha un figlio, un grandetto, ma comunque, voi vedi cosa gamba va. Infatti, almeno un bel esempio le dà al figlio, se lui si è comportato così, poi magari anche il figlio prende la sua strada come il padre, no, non è possibile, è pazzesco, un comportamento del genere è proprio pazzesco, quando mai il posto di lavoro uno non se lo deve tenere caro, perché aspetta, oggi come oggi, ripeto, è difficilissimo trovarlo. Prima, tanti anni fa, magari uscivi da un posto e entravi nell'altro, dopo un'ora avevi il posto di lavoro, ma oggi stai anni e anni, soprattutto quando uno ha la certa età, e chi ti prende più? Quando mai non se ne rende conto che c'è tanta gente in Italia, ragazzi, sta lamentandosi che è arrivato alla certa età non riescono più a ottenere un posto di lavoro. Un minimo di possibilità ce l'hanno i giovani, ma figurati se è un minimo quello dei giovani, allora è nullo sicuramente la possibilità, quello di una persona che ha una certa età, non è possibile, pazzesco. Ma la figura che fa nei confronti della famiglia che poi non riesce a portare lo stipendio a casa, fa carinaria. Lui, bravo quanto vuoi, d'accordo, sono con te, però uno deve portare i soldi a casa e se non un padre di famiglia non porta i soldi a casa, prima o poi la famiglia va a ruzzoli perché si crea del malumore, si crea e già non sappiamo cosa succede. E poi, cioè, un'azienda con 59.000 dipendenti, pensi che sia un'azienda cimbrana, un'azienda che non ha le possibilità di informarsi, fare, muoversi o cosa, mica è il periodo che annulla. l'Ulvi, ma questo è successo l'anno scorso, che all'Ulvi timbravano e se ne andavano al bar, lasciandola, guarda quanto erano furbi, lasciando la macchina all'impianto, dice così, se vedono la macchina ferma l'impianto. A me faceva ridere, quando me l'ho raccontato, mi veniva a ridere. Guarda cosa facevano questi due furbi. Allora le piante nulle, lasciavano la macchina lì, no, dentro l'impianto, cancello aperto, e ci sono andati anni su al bar, no, perché l'impianto è giù. Loro salivano su in piazza e si andavano tutti e due al bar, per non far vedere, si cambiavano la maglia, no? Si toglievano la maglia con, insomma, con le scritte, e si andavano al bar. L'azienda l'ho già fatto, questo raccontato da un dirigente, ma dirigente con le contropalle, perdona il termine, che praticamente è quello che segue tutti i mesi le cose, no? E siccome c'è un, sai, una volta c'è satellitare c'è un sistema elettronico di controllo, no? Mi ha raccontato, io ero ancora al lavoro, ero ancora al lavoro, ci sono un anno fa. Prima di andare, forse 3-4 mesi prima che me ne andassi, e mi ha raccontato, devo dire una cosa, però non si mette a ridere, la gente mi dica, ma cosa da ridere, perché se vuol ridere ridiamo, no, questa è una cosa vergognosa, e me l'ha raccontato. Apre, ci sono le targhe, no? È un sistema elettronico, AY266AZ, e mi dava. Così mi diceva, perché lì nel suo giro mi faccia capire quanto ci sta in un impianto, se ne dipende, se ho cose da fare posso starci anche un'oretta, se non ho niente da fare che vedo che l'impianto è a posto, mi faccio i controlli normali, mi prendo insomma la documentazione, mi serve e poi continuo, un quarto d'ora, 20 minuti, facciamo un'ora, dai, facciamo un'ora. Mi ha detto, questa macchina con questa targa tutti i santi giorni rimane ferma a Nulvi dalle 9 alle 13, alle 13.30 mette moto e va via. Ho detto, madonna, ma davvero tutti i santi giorni. Adesso faccio un'operazione, mi ha detto l'ingegnere, adesso faccio un'operazione e poi le faccio sapere. Cosa ha fatto il tombo? Ha messo il drone girando sopra l'impianto, non scivoli a un cane, gli ha pizzicati scendendo a piedi, no? Andando no, scendendo a piedi all'una, una volta, due volte, tre volte, alla terza volta li ha chiamati in ufficio, perché lui c'ha l'ufficio a Cagliari, proprio all'interno dello stabile di Abanoa, ma adesso mi pare che siamo trasferiti, prima in Viale Trieste, a Cagliari, li ha chiamati tutti e due, e per non licenziarli, perché li ha voluti bene, si era mandati tutti e due a Cagliari, senza macchina, senza niente, da lunedì al venerdì, non li fa lavorare sabato e la domenica, e abitano tutti e due a Cagliari. Annani pesi va. Non è possibile. Ascolta, che cosa si hanno creato con le sue malefatte sul posto di lavoro? Non è possibile. Ha fatto bene a individuare il codrone, ha fatto benissimo. Loro si creano le prese in giro, magari chi è più furbo di lui o di loro due. Ma comunque, volevo dire. Il drone è una cosa importante, ce l'ha anche mia figlia il drone. Patentato, ci vuole la patente per portare il drone. Lei lo usa per lavoro. Ce l'ha mia figlia anche, da un po' di tempo, da questa parte. Per cui, già non so se il telefonino oppure il tablet, e ti registra tutto sul tablet o sul telefonino, e poi se lo vuoi vedere in grande te lo metti nel computer e vedi l'immagine grande quanto è grande il computer. È un bel attrezzo, è una bella invenzione veramente, molto molto importante. Ci vuole la patente, lo sai, sono molto illuminare, perché non è che lo possono prendere tutti, se voglio proprio usare io non lo posso usare ad esempio, perché ci vuole la patente, ci mancherebbe. No, ma io non ho fatto nulla, no. Ci ho rivolto un'agenzia investigativa, non so come ci rimangono anche i soldi per fare ehi, ne hanno preso il cazzo di gente, ma stai scherzando? Ma buffone, dice. Lui ha chiesto all'agenzia investigativa questo tipo di operazione, quelli hanno detto certo che ci può fare, ci dica cosa dobbiamo fare, ok, ci arrangiamo noi, questo drone a girare sopra l'impianto. Da allora che praticamente lui si è accorto che la macchina rimaneva ferma e poi ripartiva, quindi in quell'orario erano pizzicati in pieno, farendi, appesi, tutti e due, cantendi, la sigaretta in bocca. Ok, perfetto, gli hanno fatto avere tutto il filmato, tutte le cose in regola, in modo che nessuno potesse protestare, no? Come te l'ha fatto Ghida sul imbecille. Guarda che io mi mettevo a ridere il mio lavoro, ma a volte mi incazzavo, dicevo, ma come si fa a stare con questo incubo, con questa cosa? Cazzo, uscite 10 minuti prima, andate a fare colazione, io cosa faccio? Io devo entrare alle 7:30, io sono operativo dalle 7:15, io alle 6:30 mi prendo la macchina, vado tranquillamente a prendermi il caffè, fare colazione, mi leggo il giornale, mi fumo una sigaretta, perché in macchina non fumo, e io a quell'ora sono operativo, nessuno mi può dire niente, ma tu non puoi timbrare alle 7:30 e alle 8:25 sei già al bar, non si può fare una cosa del genere, con le leggi che ci sono, con la storia dei cartellini, le timbrature che ne abbiamo sentito in tutti i colori, no? Nei enti pubblici che timbravano e se ne andavano a giocare a macchinetta al bar, a fare la spesa, eccetera, eccetera, ti mandano via con la legge che c'è, ti mandano a casa, capito? Quindi devi essere furbo a dire la verità, sì, mi capita a volte che allora l'azienda a uno gliela faceva recuperare. A fine mese guardavano, proprio perché non c'era nessuna possibilità di poterlo licenziare, la verità, perché è uno separato e deve dare il mantenimento, cioè condannato al tribunale per il mantenimento al figlio minore, e quindi l'azienda non può intervenire su una cosa del genere, capito? È una cosa troppo delicata, non si può fare, perché se tu lo licenzi qua non può più dare mantenimento al figlio e alla moglie, di cosa campani? Quindi cosa faceva l'azienda? Controllavano il tabulato della macchina. Oggi 10 minuti, un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, a fine mese va a dottare e ci vede, lei deve recuperarmi 4 ore, lo sa, sì. Va bene, ok. La sera, poverino, davvero, non sto scherzando, dico poverino perché mi faceva pena. No, dico, ma che ti lo fai? No, io mangio di filmà, io mi filmà, il caffè me lo giubilià, non so che ingarire qui e là, le sigarette, mi fai, sì, ma fai tocca e fuggi, no, è sciagato Guido, cosa a parlare, a fare, insomma, per lui era così, era una cosa normale. E la sera, a fine mese, lui si tratteneva, noi alle 2 uscivamo, ed ci arrisì, capito? Ogni mese lui recuperava, dalle 3 alle 4, anche 5 ore ha recuperato. Bella persona intelligente, ma che dai, non è possibile che... Bravo, vai tu e parla con queste persone, faglielo capire. Quando mai non si rendevano conto queste persone qua? Che sul posto di lavoro bisogna essere sì, non bisogna fare i pagliacci o i buffoni. Incredibile, ma cosa vuoi dire? Poi si lamentano quando magari viene licenziato. Oh, ma cosa vuoi che si dica qua? A proposito, guarda che stanotte alle 8:20 c'è la Juve femminile su Radio Sport. Alle 8:20, lo spareggio per la Supercoppa, non lo spareggio, la Supercoppa femminile con la Fiorentina, il vento su Fiorentina, alle 8:20. Ah, ancora me la guardo allora, tanto che è sabato, guarda, Maria De Filippi, non entro qua, camera mia, qua c'è la radio e me la guardo. No, Giulio, ma c'è da ridere, ti sto cedendo, mi mettevo a ridere, ma per la Bignì, ma la gente che si nascondeva quando, perché ti ripeto, il controllo andava incrociato tra la macchina, le timbrature, eccetera, e quindi ti pizzicavano per forza, vedevano che c'erano questi buchi, dove uno addirittura è andato a dire, ehi, c'era un incidente, mi sono dovuto mettere in colonna, ero fermo lì, come metti in colonna, vabbè, fermo lì, ok, poi mi hanno fermato i carabinieri, ma quelli non sono scemi, mi. C'è un responsabile del servizio, non è contro palle, mi. Non sto scherzando, che c'è l'ufficio a cane, non ti posso dire chi è, perché abita dietro di te, capito? C'è l'ufficio a carica, una persona molto attenta al suo lavoro, e quando faceva questi controlli, non è stupido. No, ok, e dove era l'incidente? E chi? Avevo cascino buio, e dove ti hanno fermato? È lì all'incrocio di occhi, ma dove? Dove? Cos'era? Carabinieri, e che imbecille di zia di zia Bogufauri. Quello scriveva, prendeva appunti, poi prendeva il telefono e chiamava ai carabinieri. Ma le risulta che tal giorno alle ore tot lei ha fermato un fiorino della ditta targato, chi lo baidava, perché c'hanno i brogliacci, i carabinieri c'hanno i rapportini, c'hanno i brogliacci giornalieri, chi lo baidava? Assolutamente no, a parte il fatto che noi posto di controllo in quel giorno, a tal ora, in quel punto, noi non ce l'avevamo. Cosa racconti male? Cosa racconti a fare male? Fai ancora più brutta figura. Sì, che vergogna. Sai, questa è una vergogna. Un uomo grande andare a raccontare il Sergio Sotto, incredibile. A volte sembra che sia una cosa impossibile che uno arrivi a fare certe cose. Eppure lo fanno, altro che se lo fanno. Voglio con tutti i controlli possibili e immaginabili che ci possono essere, e non se ne rendono conto grazie a che la gente è controllata, è incredibile. Come quello, ti ricordi quello che aveva timbrato dal comune, era ucciso in mutande da casa sua, a timbrare la valogna. Ma quando mai uno non si sotterra quando viene scoperto da un fatto del genere? Questa è truffa, questa è truffa, questo significa rubare i soldi allo Stato o all'ente pubblico o chi che sia. Non è possibile che uno possa agire in questo modo sul posto di lavoro. Cosa vuol dire? No, ma è un sistema sbagliato in generale, sì, l'ho visto la TV, quella abitava di fronte al comune, scendeva in mutande, timbrava e poi andava via e si durava a cucà. Ma gli hanno fatto vedere tanti di servizi, anche alle Iene, a Striscia la Notizia. Cioè, non puoi giustificarti quando un ambiente è già saturo di controlli. Tutte le aziende oramai controllano, ma io stavo parlando anche con un maresciallo dei carabinieri da poco, mi stava raccontando che anche le loro macchine sono in leasing plan, praticamente sono tutte leasing le macchine che hanno i carabinieri, la polizia, eccetera, sono tutti muniti di autocontrolli, quindi di satellitari, di percorsi, eccetera, e il comando sa dove sono fermi loro, cosa stanno facendo, sanno tutto. Tu capisci che noi non siamo controllati? Prima ci fermavamo, infatti ce ne vedono in poco di battaglie di carabinieri, di polizia e di vigili urbani, anche le macchine vigili urbani sono tutte con satellitare, tutte controllate. Oramai non scappa più nessuno, perché ne hanno approfittato tutti, ognuno ha fatto la sua parte. E gli enti pubblici sono stufi di dare soldi a gente che non fa niente, che va a timbra e se ne va a casa, o va, ma non è già Guido che è ammalato, che si era fatto sospendere dal lavoro, poi era andato a casa chiedendo che stava male, ma che l'hanno trovato giocando a pallone, uno non so, mi ricordo dov'è, non so se in Sardegna o fuori. Ma come si fa a fare una cosa del genere? Si deve andare a giocare a pallone, non devo mandare un permesso e vai a giocare a pallone. Cosa dichiari che sia malato? Se sia malato, cazzo, deve rimanere a casa. No, anche lì l'hanno pizzicato con l'udrone, la matta cigogia, perché era diverse volte, è come il cacciatore, no? Noi ne avevamo tre o quattro cacciatori nella mia squadra, certo ogni giovedì erano malati, la domenica la volevano sempre libera, ogni giovedì ammalato. Alla fine l'azienda si è stufata e ha capito qual era il problema, capito? È incredibile, ragazzi, guarda, non è possibile. Sì, lo so, questa gente è quello che andava a pescare, certo, sembrava poi se andava a pescare nelle ore di lavoro, perché tutti i colori che ne sono. Questa gente per ottenere un posto di lavoro sono capaci di vendersi anche la madre, la moglie, le sorelle, i figli, o meglio le figlie, per dire una volta che l'hanno ottenuto poi non vogliono fare più niente, ma non è possibile. Che è nata di persone, per carità. E vabbè, dai. Proviamo un attimo in FM se funziona bene questa cosa o qua. Aspetta che devo cambiare io, devo uscire dalla memoria. Ok. Ecco, sì, che ci sono, mi ascolti? Sono 2 3 3 Sì, sì, ti ascolto perfettamente bene. Tu mi senti? Aspetta che ti sintonizzo bene, sono Fabra che ti sintonizzo. Ecco, sono fuori? Non sono sintonizzato bene. Aspetta che ho messo il filtro nella banda laterale, ho messo. Sì. Prova, io adesso sono centrato a 27.075. Ho messo il filtro nella banda laterale. Ok, io sono 27.075, mi senti? Perfetto, chiaro, chiaro, chiaro, perfetto. Passami LSB adesso. Audio? Sì, mi senti nell'SB? Perfetto, tutto benissimo, va bene, ripassiamo in AM, dai, tutto a posto qua. No, già funzionano bene, te l'ho detto, se sono tenute bene già funzionano bene, dai. Sì, dai, passiamo in AM. Ecco, sono tornato in AM. Ok, aspetta, ho toccato il mic gain, eccolo qua, va bene, sì? Sì, sì, va benissimo, a voglia. Perché ricordi, se passi in banda laterale, devi tirare su leggermente il mic gain, per avere proprio la radio perfetta e forte, capito? Perché se io la lascio stare così come ce l'avessi a una, troppo bassa in banda laterale. No, anche la mia è stata televisionata, l'unico problema che mi ha fatto è un euro, ho cambiato questo relè di commutazione, per il resto è già un paio d'anni che è stata revisionata. Prima di chiudere Bianco, un paio d'anni, a settembre l'anno scorso, già un anno, a settembre l'anno scorso me l'ha data, perché l'avevo mandata a giugno, agosto no, non ha lavorato e me l'ha restituita a settembre, quindi va bene. Dai Giulie, adesso sono le 8:10 anche oggi, chiudiamo la baracchetta, adesso mi vado a portare il cane, una passeggiatina e poi dopo se ne usciamo un po' andiamo a trovare mia figlia che è di turno entro le 8:30, esce a mezzanotte oggi. C'è festa, mi stava dicendo Luca al latte dolce. Io lo stavo sentendo anch'io poc'anzi, che ha detto che c'era la festa in azienda, quello che sono. E vabbè. No, ci vado io, nemmeno per sogno. No, rimango a casa, mi vado alla partita della Juventus alle 8:20 e poi vediamo un po', magari con un po' di televisione, e poi a nanna e ci sentiamo di nuovo domani. Vabbè, qua, dai, allora ti lascio andare, probabilmente devi portare anche il cane a passeggiare. Ci sentiamo domani, eventualmente. Ciao, Cla. Grazie per la chiacchierata. A domani, dai. Ciao, ciao. Ascolto il finale e poi chiudo anch'io, dai. Gappa, giù. Ehi, sono le 8:05. Sì, vado a portare il cane. Se non mi sarei trattenuto ancora, sennò quando ti chiamavano, ma è già tardi. È già qua vicino a me. Esistente. E andando, stiamo, dai. Ciao giù, a domani, buon fine serata e buon tutto, ciao ciao. Ok, ciao di nuovo, a domani, ciao.